Ci sono parole che a volte ci attraggono in modo particolare. Puoi leggere un libro intero, ma una parola ti rimane particolarmente in mente. Così mi è successo ultimamente nel leggere la Bibbia. Questa parola è il termine tutti e i suoi sinonimi. Mi è rimasta impressa forse perché ha una estensione totale, immensa, che non lascia possibilità a alcuno di rimanerne fuori o esserne estraneo. Perciò mi sono sentito particolarmente coinvolto e anche ho visto te coinvolto. Se fosse stata un'altra parola, come molti, avrei avuto dei forti dubbi, ma tutti, chiunque, non lasciano alternative. Poiché la Bibbia è la parola di Dio, o almeno un libro serio visto che è letto ogni domenica nelle chiese, conviene considerare in quale occasione usa il termine tutti o il suo sinonimo chiunque e cosa dice di me e di te. Un simile termine si trova, secondo il computer, migliaia di volte nei diversi contesti, ma io ne ho scelto solo 8 per non cadere nel pericolo di dire tanto per poi dire niente. La prima espressione è attinta dalla lettera ai Romani. 1. Romani 3.21. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Rom 3.9.21. Per chi non lo sapesse, il peccato è ogni violazione alla legge di Dio. Perciò, dicendo che tutti hanno peccato, la Bibbia dichiara che nessun uomo mette totalmente in pratica la volontà di Dio. E la volontà di Dio, per chi non lo sapesse, è chiaramente espressa nella Bibbia. Come si sa, la Bibbia è una raccolta di 66 libri. Ricordare cosa è scritto in tutti questi libri non è facile, perciò è sufficiente ricordare i 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul monte Sinai. Anche questi soli 10 comandamenti, nessuno è in grado di osservarli tutti assieme. Quindi, tutti gli uomini hanno trasgredito il volere di Dio per questo. Non possiedono lo Spirito Santo, cioè la gloria di Dio. 2. Romani 5.12. Mediante il peccato di Adamo, tutti sono morti, perduti. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Questo ragionamento di Paolo vuol dire che la morte dimostra che tutti gli uomini sono peccatori. Un ragionamento molto utile per togliere ad alcuni la convinzione di non essere dei peccatori. In effetti, alcuni si ritengono giusti davanti a Dio, non si sentono in colpa e quindi il Vangelo di Cristo non fa per loro, perché essendo morto per i peccatori, Cristo non è morto per loro. Di fronte alla notizia che tutti gli uomini sono peccatori, le reazioni sono due. È chi non ci crede e chi compie opere per meritarsi la salvezza. Tu a quale categoria appartieni? Se non ci credi, non cambi la situazione, perché l'incredulità non annulla la verità. Se compi opere per attrarre la salvezza, hai una vita molto infelice, perché sei schiacciato dal dovere di fare delle opere. Se non ti va bene, il Vangelo propone un'altra e gradevole soluzione. 3. Romani 5.18.20. A tutti è offerta una salvezza gratuita, senza opere. In genere, chi appartiene ad una religione è condizionato da un circolo mentale chiuso, perché crede che la sua religione sia giusta e quella degli altri sbagliata. È vero che alcune religioni missionarie includono anche altri aspetti etici di altre religioni, ma è solo un'apertura formale, perché comunque una religione non cambia il suo credo. Per quanto anche quella dei cristiani potrebbe apparire una fede settaria, non è possibile che sia tale perché il messaggio è universale. Nessuna persona ne è esclusa. Così troviamo scritto nel libro della fede cristiana. Come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia. La grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Come tutti gli uomini sono peccatori, nessuno escluso, il cristianesimo continua a insegnare che la salvezza o la beatitudine eterna è offerta a tutti indistintamente. Quando leggiamo che la grazia si è estesa a tutti gli uomini, significa che il dono della salvezza eterna è offerto a chiunque. Quindi, sta all'uomo accettare questa mano tesa. Con il suo sacrificio sulla croce, Gesù ha riconciliato a Dio suo padre il mondo, cioè coloro che vivono in contrapposizione al volere di Dio. Perciò, nessun essere umano può avere delle scuse per la sua scelta di rimanere separato da Dio, anche perché non è necessario compiere delle buone opere per essere graditi. Tu devi semplicemente accettare il piano e le proposte di Dio, null'altro. Non puoi essere salvato come vuoi tu. Il Salvatore è Cristo. Gesù detta a lui le regole. 4. Atti 10.4.3. Tutti ricevono il perdono dei peccati mediante la fede in Cristo. Atti 10.43. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. L'apostolo Pietro, un ebreo zelante nella religione e nelle tradizioni dei suoi padri, per la prima volta, predicava contro gli usi e i costumi del suo popolo, ad un uomo non ebreo. Gli annunciava, per il volere di Dio, il messaggio del nuovo patto, cioè il perdono di tutti i peccati a chi poneva fede. Nell'opera di Cristo compiuto sulla croce, Gesù era ebreo, era venuto per gli ebrei suoi discepoli. Erano tutti ebrei mandati a predicare agli ebrei, ma in questo momento il suo messaggio era rivolto anche a chi non apparteneva al popolo scelto da Dio per essere suo testimone. Pietro stava inaugurando una nuova era, nella quale tutti coloro che avessero ricevuto il perdono dei peccati avrebbero fatto parte del popolo di Dio. Così, in questi tutti ci sono anch'io che sono italiano, come vale per il russo, l'americano, l'africano e l'australiano. Come tutti sono peccatori, così pure tutti possono ricevere il perdono dei peccati, nessuno escluso. Un'altra verità estremista, che fa parte della fede cristiana, è stata espressa dall'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi con queste parole. 5. 2 Corinzi 5.1-4.15. L'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché tutti quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini, perché tutti sono peccatori. È morto sia per salvare tutti, sia perché tutti i riscattati dalla condanna eterna non vivano come meglio ritengono opportuno, ma secondo il volere di Cristo. Non tutti i riscattati hanno questa consapevolezza, e, se anche hanno compiuto, nella loro disperazione, un atto di fede nell'opera di Cristo, non si sentono di dover continuare meno come atto di riconoscenza, meno a rimettere la loro volontà, i loro obiettivi, il loro futuro, nelle mani di Cristo. Il che vuol dire non vivere per se stessi, ma per Cristo, che è morto e risorto per loro. Quanti cristiani hanno la consapevolezza che per amore sono costretti a vivere per Cristo? Per me, Cristo non è solo la mia vita, il mio benessere, ma anche la mia sofferenza, la mia morte, cioè vivendo per Lui incontro disprezzo, ingiurie e anche sofferenze, che possono anche eventualmente causare la morte. 6. 1 Pietro 2,17 Onorantico Testamento e tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Ogni religione sembra un circolo religioso e sociale chiuso, nel quale si vigono certi comportamenti non consoni altrove. Per i fratelli in fede si hanno atteggiamenti di comprensione, mentre con il vicino di casa eventualmente si è insensibili. Se un credente sbaglia nei tuoi confronti, sei anche disposto a perdonare, mentre nei confronti di un familiare incredulo sei intollerante. Il cristianesimo non è così. Avendo un messaggio universale richiede un comportamento universalmente giusto, senza riguardi di persona. E per questo Paolo ordina ai credenti di onorare tutti, sia le persone per bene, sia quelle che non lo sono, sia quelle che hanno alta carica, sia chi è disprezzato. Facile da dirsi, difficile da mettere in pratica. Che lo vogliamo o no, siamo tutti condizionati dal nostro modo di pensare. Se riteniamo qualcuno non degno di stima o proviamo nei suoi confronti sentimenti negativi, siamo tentati fortemente a non onorarlo, cioè a non rispettarne la persona. Di conseguenza, facilmente uscirà dalla nostra bocca qualche parola di disprezzo. In genere le si dicono scherzando in modo di non sentirsi colpevoli, ma questo atteggiamento non troverà giustificazione davanti a Dio. Una parola sbagliata rimane tale, anche se detta per scherzo. 7. Ebrei 8 e 11. Tutti hanno la possibilità di conoscere Cristo e Dio. E nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Come abbiamo considerato, gli estremismi del cristianesimo non riguardano solo aspetti negativi, ma anche alcuni positivi, tra i quali uno mi fa saltare dalla gioia. Non vedo tesoro più grande nella mia esistenza dell'essere in grado di conoscere Cristo. E un tesoro se è vero che conoscere le persone vale molto di più che conoscere le cose. C. È gente che percorre chilometri e chilometri, spende una barca di soldi, solo per vedere paesaggi e città. Io farei questo per conoscere certe persone. Si deve anche aggiungere che il termine conoscere nella Bibbia ha un significato molto più profondo di sapere o imparare, perché esprime l'idea di un coinvolgimento totale con l'altra persona. Così, ho conosciuto una persona non perché l'ho vista o ho parlato con lei, ma perché ho camminato, ho mangiato, ho partecipato ai momenti più intimi della sua vita. E in riferimento a Cristo, l'ho conosciuto quando Lui è diventato il mio padrone e il mio personale salvatore. In definitiva, conosco Cristo dal mese di maggio del 1964, quando ho avuto un incontro tale con Lui da cambiare completamente la mia vita, ciò che succede per esempio in un matrimonio. Gli sposi non sono più due, ma una sola carne, e convivono assieme con un unico obiettivo: ciò che è mio è suo. Ciò che è suo è mio. 8. Romani 5.10. 2 Cor. 5.10. Tutti i salvati saranno giudicati dal tribunale di Cristo. Vi è un'altra verità assoluta, spesso dimenticata da chi ha posto fede in Cristo, la consapevolezza della quale può rendere più santa la vita del cristiano. Ci aspetta un tribunale. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Sapere che un giusto e implacabile tribunale ci aspetta per giudicare le nostre azioni non può lasciare indifferente nessuno, neppure il più malvagio e ostinato degli uomini. Il tribunale di Cristo possiede però una particolarità. Saranno giudicate perfino le intenzioni, oltre che le azioni. Questa verità ha condizionato e condiziona fortemente il mio agire e le mie motivazioni. E, vero che posso riuscire a nascondere agli uomini il motivo del mio agire nel pregare, nel testimoniare e nell'aiutare il prossimo, ma tutto questo sarà comunque rivelato nelle assise di Cristo, perché, come è scritto, nunc è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia palesato. Marco 4:22. Un brivido mi sale per la schiena e anche una gioia incontenibile mi accompagna. Perché verranno alla luce tutte le mie intenzioni e perché Dio mostrerà la mia sincerità e onestà. E così anche per te. Gennaio 2013. Ellero.